terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. Chi ha sgraffignato le pizzette? Quando Alice ed il grifone giunsero sul posto, trovarono il re e la regina seduti sul loro trono e attorniati da una gran folla, fra cui figuravano uccellini e bestiole di ogni specie, oltre all'intero mazzo di carte. Il fante, tutto incatenato, stava in piedi fra due carcerieri, al cospetto delle loro maestà. Vicino al re c'era il coniglio bianco, con una tromba in una mano e un rotolo di pergamena nell'altra. Al centro della corte c'era un tavolo su cui faceva bella mostra di sé un gran vassoio di pizzette. Avevano un aspetto così invitante che ad Alice venne l'acquolina in bocca. Se si sbrigassero col processo, pensava, e passassero direttamente al rinfresco. Ma questa sembrava più che altro una pia illusione, e così, per ingannare l'appetito, cominciò a guardarsi attorno. Alice non aveva mai messo piede in un tribunale prima d'ora, ma ne aveva sentito parlare a scuola e scoprì compiaciuta di conoscere il nome di tutte le cose che vedeva. «Quello è un giudice», si disse, «un giudice con la sua parruccona». Il giudice, fra l'altro, era proprio il re, e dato che sopra la lunga parrucca portava la corona, non sembrava molto a suo agio e la mise non gli donava di certo. «E quello è il banco della giuria», pensò Alice, «e quelle 12 creature», era obbligata a chiamarle creature perché fra esse c'erano anche animali e uccelli, «devono essere i giurati». Quest'ultima parola se la ripeté a bassa voce 2 o 3 volte, «giurati, giurati, giurati». Tanto era fiera di se stessa, poiché pensava, e ha ragione, che ben poche bambine avrebbero saputo precisarne il significato, per quanto anche giuria poteva andare. I 12 giurati erano alle prese con delle lavagnette. «Che stanno facendo?» sussurrò Alice al grifone. «Non è possibile che abbiano qualcosa da scrivere prima che il processo sia cominciato». «Stanno prendendo nota del proprio nome», bisbigliò per tutta risposta il grifone, «per timore di dimenticarselo prima che il processo finisca». «Roba da chiodi!» s'indignò Alice a voce alta, ma subito si morse la lingua poiché il coniglio bianco gridava «Silenzio in aula!» E il re inforcava gli occhiali e si guardava nervosamente attorno per individuare chi aveva parlato. Alice intanto riuscì a vedere meglio che se avesse sbirciato alle loro spalle che tutti i giurati stavano trascrivendo «roba da chiodi» sulle loro lavagne e s'accorse perfino che uno di loro non sapeva come si compita «chi-o-di» e lo stava chiedendo al vicino. «Chissà che pastrocchi su quelle lavagne alla fine del processo», pensò Alice. Uno dei giurati aveva un gessetto che strideva. La qualcosa va da sé, per una bambina come Alice era assolutamente intollerabile, cosicché andò a mettersi dietro il giurato e alla prima occasione glielo fece sparire. Lo fece con una tale sveltezza che il povero animaletto, si trattava di Billietto, 100 grammi di ramarro, non riusciva a capacitarsi della sua sparizione e dopo averlo cercato per mari e monti fu costretto a scrivere con un dito per tutta la durata del processo con scarsi risultati perché un dito non ha mai lasciato scritto niente su una lavagna. Day one storm, and it was beautiful. Day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, endless colored ways. Go play the game that you like. now we rise. We are everywhere, and now we rise from the ground. See, she flies, she is everywhere. See, she flies all around. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play a game that you like from the morning. «Araldo, leggi l'accusa!» disse il re. A queste parole il coniglio bianco diede tre squilli di tromba, svolse il rotolo di pergamena e lesse quanto segue. «Bolli bollori, regina di cuori, bolle bollette, apprestò le pizzette, bolle bollate in un bel giorno d'estate, bolli bollori, ma fante di cuori, bolle bollette, rubò le pizzette, bolle bollate, non le ha più ridate!» «Dateci dentro con il verdetto!» disse il re alla giuria. «Non ancora, non ancora!» si affrettò a interromperlo il coniglio. «C'è un sacco di altra roba che viene prima!» «Chiama il primo testimone!» disse il re. E il coniglio bianco diede tre squilli di tromba e chiamò: «Primo testimone!» Il primo testimone era il cappellaio. Si fece avanti con una tazza di tè in una mano e una fetta di pane e burro nell'altra. «Perdonate, vostra maestà», cominciò, «se mi presento insieme a costoro, ma non avevo ancora finito il mio tè quando sono stato mandato a chiamare». «Avresti dovuto finire», rispose il re. «Quand'è che hai cominciato?» Il cappellaio guardò la lepre Marzolina, che l'aveva seguito nell'aula, braccetto col ghiro. «Il 14 marzo, mi pare», disse. «Il 15!» disse la lepre Marzolina. «Il 16!» disse il ghiro. «A verbale!» disse il re alla giuria, e la giuria si affrettò a riportare sulle lavagne tutte e tre le date. Poi ne fece la somma e calcolò quanto faceva in lire e caramelle. «Togliti il cappello!» disse il re al cappellaio. «Non è mio?» disse il cappellaio. «Rubato!» esclamò il re rivolgendosi alla giuria, che prese immediatamente nota della cosa. «Ma li tengo per venderli», si giustificò il cappellaio. «Di miei non ne ho, faccio il cappellaio». A questo punto la regina inforcò gli occhiali e si mise a fissare con insistenza il cappellaio, che sbiancò e cominciò a tremare. «Fa la tua deposizione», disse il re, «e non essere nervoso o ti faccio giustiziare a tambur battente». La cosa non sembrò incoraggiare il testimone, che prese a spostare il peso del corpo da un piede all'altro, guardando di sotto. Tecchi la regina e, confuso com'era, staccò con un morso un grosso pezzo di tazza invece che di pane imburrato. Proprio in quest'istante Alice provò una sensazione stranissima di cui per un po' non riuscì a comprendere la causa. Stava di nuovo mettendo su centimetri. Dapprima pensò che era meglio alzarsi e uscire dall'aula, ma poi decise di restare dov'era, almeno finché ci fosse stato spazio a sufficienza. «Ti sarei grato se non mi schiacciassi in questo modo», disse il ghiro, che era seduto accanto a lei. «Non riesco nemmeno a respirare. Non posso farci niente», disse Alice completamente disarmata. «Sto diventando grande». «Non hai alcun diritto di farlo qui», disse il ghiro. «Non dire asinate. disse Alice in tono più deciso. Anche tu cresci, sai. Certo, ma almeno cresco a un ritmo ragionevole, io, disse il ghiro. Mica in modo ridicolo come te. Si alzò indignatissimo e andò a mettersi dalla parte opposta dell'albero. Waterfall, nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. Some people say daydream is for all the lazy-minded. Tempo, la regina non aveva smesso un istante di fissare il cappellaio e, proprio mentre il ghiro attraversava l'aula, disse a uno degli uscieri: «Portami la lista dei cantanti dell'ultimo Super Festival!» Al che l'infelice cappellaio prese a tremare in modo tale che gli si sfilarono entrambi gli stivali. «Fa subito la tua deposizione», ripeté il re con voce collerica, «altrimenti te lo curo io il nervosismo!» «Sono un povero Cristo, vostra maestà», cominciò il cappellaio con voce tremula, «e non avevo nemmeno cominciato a bere il tè, non più di una settimana fa, e poi quelle tartine imburrate così fine!» «Brilla, brilla, biondo tè, tutto comincia con un tè». «Tutto comincia con un ti, vorrai dire», disse il re seccatissimo. «Mi prendi per il sedere? Va avanti». «Sono un povero Cristo», continuò il cappellaio, «e da allora quasi tutto cominciò a brillare, ma la lepre Marzolina ha detto...» «Non è vero!» lo interruppe a precipizio la lepre Marzolina. «Sì, invece», disse il cappellaio. «Obiezione!» disse la lepre Marzolina. «Accolta!» disse il re. «Non tenete conto di quanto detto dal teste». «Beh, comunque il ghiro ha detto», continuò il cappellaio guardandosi attorno per paura di essere smentito anche stavolta, ma il ghiro non negò un bel niente, poiché era mezzo addormentato. «Dopodiché», continuò il cappellaio. Mi preparai delle altre tartine imburrate. Ma cos'è che ha detto il ghiro? Chiese uno della giuria. Ah, questo non me lo ricordo, disse il cappellaio. Devi ricordartelo, osservò il re, se non vuoi essere fatto a fettine. L'infelice cappellaio lasciò cadere tazza e tartina e cadde ginocchioni. Sono un povero Cristo, maestà, riprese. Sei un povero parlatore, su questo non ci piove, disse il re. A questo punto una porcellina d'India tentò un applauso che gli usceri fecero abortire sul nascere. Poiché far abortire sul nascere è un'espressione un po' difficile, vi voglio spiegare in che cosa consiste. Gli usceri hanno in dotazione un grande sacco con lacci all'imboccatura. Presero la porcellina, ce la buttarono dentro a testa in giù e poi ci si sedettero sopra. «Ah, finalmente ho visto come si fa!» pensò Alice. Ho trovato tante di quelle volte nei giornali che alla fine dei processi c'è stato un tentativo di applauso abortito sul nascere grazie all'intervento della forza pubblica e non avevo mai capito che volesse dire. Se non hai altro da dire puoi anche ritirarti, continuò il re. Non posso ritirarmi, disse il cappellaio. Non sono mica un cuffiotto infeltrito. Allora puoi anche sederti, rispose il re. Altro applauso da parte di un porcellino d'India nuovamente abortito. Bene, e con questo abbiamo abortito anche l'ultimo porcellino d'India, pensò Alice. Adesso sì che possiamo andare avanti. Potrei finire il mio tè? disse il cappellaio con uno sguardo colmo d'apprensione all'indirizzo della regina che stava scorrendo la lista dei cantanti. «Puoi andare», disse il re, e il cappellaio lasciò il tribunale in tutta fretta senza neanche rimettersi gli stivali. «E lasciar giù la testa all'ingresso!» aggiunse la regina rivolta a uno degli uscieri, ma il cappellaio era scomparso ancor prima che questi potesse raggiungere la porta. «Avanti il secondo testimone!» disse il re. Il secondo testimone era la cuoca della duchessa. Si fece avanti con la pepiera in mano, ma Alice aveva già indovinato chi era ancora prima che entrasse in aula, poiché la gente vicina all'entrata aveva cominciato all'improvviso a starnutire e «Cim! E cim! E cim!» «Fa la tua deposizione», disse il re. «Manco morta!» disse la cuoca. Il re lanciò uno sguardo ansioso al coniglio bianco che disse a bassa voce «E vostra maestà che deve interrogare questo testimone?» «E va bene, se devo, devo», disse il re, avvilito, e dopo aver incrociato le braccia e corrugato la fronte, fin quasi a far sparire gli occhi, disse con voce impostata «Di che cosa sono fatte le pizzette?» «Pepe, per lo più», disse la cuoca. «Melassa», disse una voce sonnacchiosa alle sue spalle. «Arrestate quel ghiro!» strillò la regina. «Decapitate quel ghiro! Buttatelo fuori dall'aula! Abortitelo! Pizzicatelo! Strappategli i baffi!» Per qualche minuto regnò una gran confusione nell'aula, si dovette buttar fuori il ghiro e quando tutti si rimisero a sedere, la cuoca era scomparsa. «Fa niente», disse il re con evidente sollievo. «Avanti il prossimo testimone!» E sottovoce alla regina disse «Penso proprio, mia adorata, che dovresti interrogare tu il prossimo testimone. Mi è venuta una tale emicrania!» Alice osservava il coniglio bianco che scartabellava freneticamente nell'elenco, curiosa di sapere chi sarebbe stato il prossimo teste. «Perché a dire la verità, finora più che teste di cavolo», si disse Alice fra sé e sé. Immaginatevi la sua sorpresa allorché il coniglio bianco, con la sua vocina acuta e stridente, lesse «Alice!» «Presente!» gridò Alice, dimenticandosi nell'emozione del momento che negli ultimi minuti era cresciuta a dismisura e balzò in piedi con tanta forza che con un lembo della vestina rovesciò il banco dei giurati e li spedì a capofitto tra la folla, dove rimasero incastrati a gambe all'aria in una buffa baraonda che le fece venire in mente quando una settimana prima aveva rovesciato per sbaglio una vaschetta di pesci rossi. «Oh, mille scuse!» esclamò tutta mortificata e cominciò a raccattarli in fretta e furia perché aveva in mente l'episodio dei pesci rossi e temeva che, se non avesse rimesso a posto i giurati al più presto, sarebbero morti asfissiati. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. I went down to the demonstration. singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jerry. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Just my vibe.